you, and let us start our session with additional instructions. Buongiorno a tutti, allora cominciamo questa sessione in cui darò delle istruzioni aggiuntive. Now, what we shall do during our morning session is to provide some additional information on the mindfulness in sitting meditation, on mindfulness during the walking meditation, then also on mindfulness during general activities, and then finally we'll talk about the interviews and some general attitudes towards practice. Quindi quello che faremo stamattina è fornire delle istruzioni aggiuntive per quanto riguarda la meditazione seduta, la meditazione camminata, la meditazione, la consapevolezza durante le attività quotidiane, per qualche indicazione sui colloqui e per finire degli atteggiamenti auspicabili da tenere così, riguardo alla pratica. So in terms of sitting posture, you can sit as you would like. The texts recommend to sit in the full lotus posture, but obviously not everyone can do this. If that is not possible, then in half lotus. If that also proves to be too difficult, then one could sit in what might be called the Burmese posture, with one leg placed in front of the other. And then if that too is uncomfortable, then you might consider placing one, pointing one leg into the back, or else you could sit on a bench or even on a chair. Dunque, potete, per quanto riguarda la posizione seduta, potete assumere quella che, in cui vi sentite più stabili, anche se i testi consigliano la posizione del loto. Ovviamente questo non è facile per tutti, per cui in alternativa potete incrociare le gambe nella posizione del mezzo loto, oppure, se questo vi risulta difficile, alla birmana, che vuol dire una gamba davanti all'altra. In alternativa potete mettere una gamba dietro, girare la gamba, piegare la gamba all'indietro, o infine potete sedervi su uno sgabello o su una sedia. Now, when you sit on a chair, let's say, owing to some chronic back problem, or you've had some an injury, even surgery, then this is fine, but make sure you don't lean against the backrest. Se vi sedete su una sedia a causa di problemi alla schiena o qualche intervento, insomma, sentitevi liberi di farlo, però l'importante è che non vi appoggiate allo schienale. When it comes to choosing a proper posture, the important principle or point to pay attention to is that you can maintain the posture for a longer period of time in a comfortable manner. What's the use of sitting in full lotus posture if after 10 minutes you develop excruciating pains and then you can't hold the posture anymore? Quindi diciamo che la cosa più importante nello scegliere la postura da tenere è di sceglierne una che voi possiate mantenere per un tempo prolungato. Quindi Venerabile dice che senso ha scegliere di stare in una posizione, per esempio, di loto, se dopo 10 minuti vengono dei dolori fortissimi e siete poi costretti a cambiare la posizione. No, in terms of posture of your hands, you can place them on your knees or between the knees, halfway between, or like this. So anyway, it's fine. In some traditions, much importance is given to the hand posture of the hands, the so-called mudra, but in Vipassana meditation, that's really not the important point. Quindi potete mettere le mani come volete, o sulle gambe, oppure in mezzo, o sulle ginocchia, o in mezzo alle ginocchia, oppure piegate col palmi verso l'alto sul grembo. Diciamo che in alcune tradizioni, tradizioni buddiste, la posizione delle mani è importante, i cosiddetti mudra, ma nella vipassana non è così fondamentale. then try to keep your back as upright as possible. And the reason for it, this is that if you practice, if you sit there with a slouched back like this, then the posture will easily lead to sleepiness. It may also hinder your breathing, your respiratory system, your blood circulation and the urinary system. Ecco, quando tenete la posizione seduta, assicuratevi che la schiena sia eretta, e questo è il motivo di ciò, è che se piegate in avanti, se vi incurvate in avanti, questo può portare a della sonnolenza e può anche darvi dei problemi a livello di respirazione, a livello digestivo, a livello urinario e anche della circolazione del sangue. And then, when we sit with an upright back, then we close our eyes and then focus our attention on the rising and falling movement of the abdomen. And we try to maintain a natural breathing. This means that we neither try to speed it forcefully, speed it up, nor to forcefully slow it down. We just observe it as it is. Quindi trovate la posizione, chiudiamo gli occhi e poi portiamo l'attenzione sull'addome che si alza e si abbassa. Molto importante mantenere una respirazione naturale e non forzarla, quindi né cercare di respirare più velocemente né in maniera più lenta. Cercare di osservare nel modo più naturale possibile. If we interfere with our breathing, so at times when it's very slow and we can't see it properly, then intentionally we force it, we try to make it a bit faster, a bit clearer, then this is interfering with the practice, interfering with the natural process. Quindi è importante non interferire con la respirazione, e quindi a volte il respiro può sembrarci molto leggero, molto lento, e potremmo volerlo rendere più chiaro, più evidente o più veloce. Questa è una cosa da non fare perché stiamo interferendo con un processo naturale. So when at times the breathing is quite fast and forceful, then just observe it that way. Or if at other times it's a bit slower and shallower, then observe it just as it is. Se a volte il respiro è molto veloce, forzato, osservatelo così com'è, e viceversa, se invece è molto lento e sottile, anche lì osservatelo come si presenta in maniera naturale. No, yes, last night we mentioned already that the primary object is the observation of the rising and falling movement of the abdomen. Ieri sera abbiamo già detto che l'oggetto primario è l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. And with this, when the rising movement of the abdomen occurs, we label it just briefly as rise, and then we try to observe it as best as we can from start to finish, and we try to know its nature. By knowing its nature is meant knowing its qualities in terms of sensations, its characteristics, or specific features, whatever strikes your attention. Quindi quando osserviamo l'alzarsi, per esempio, dell'addome, allora osserviamo il processo dal suo inizio fino alla fine, il movimento dall'inizio alla fine, e quindi lo notiamo, vediamo un'etichetta mentale, osserviamo il processo, cerchiamo di capirne la natura. Per capire la natura si intende cercare di vedere le sue caratteristiche specifiche, quindi le sue, come si dice, features, characteristics, it's different words for the same thing. Sì. In realtà le caratteristiche, quindi come si presenta, le sue qualità, ecco. Okay. So then, having done this for a while, having observed the rising and falling movement of the abdomen for a while, then obviously sooner or later some other object will come into our field of observation. And if that is the case, and that object is prominent, then we let go of the observation of the rise and fall, and suddenly then we focus our attention to that next object, and then we label it, we observe it, we try to know its nature. Quindi dopo un po' che osserviamo l'alzarsi ed abbassarsi dell'addome potrebbe sorgere un altro oggetto secondario che attira la nostra attenzione, viene a essere in primo piano, a quel punto lasciamo perdere l'addome e portiamo la nostra attenzione su questo oggetto secondario. Di nuovo lo etichettiamo, lo osserviamo, cerchiamo di conoscerne la natura. And as mentioned last night, wandering mind, thinking, is likely to arise, and there's a number of points that need to be mentioned with regard to this. Namely, that it's important that we don't get caught up in the content of our thoughts. However fascinating the thought may be, in the end it boils down to just a thought. Per quanto riguarda la mente divagante, di cui abbiamo accennato ieri, quindi i pensieri, occorre prestare particolare attenzione. Quando sorge un pensiero, quando la mente comincia a divagare, è importante non farsi catturare dai contenuti del pensiero, ma semplicemente riconoscerlo come tale e etichettarlo come un semplice pensiero. And certainly then, when we observe a thought, we have to be careful that the thinking will not lead to another thought, to another thought, in other words, to a train of thoughts. Quindi quando osserviamo il pensiero è importante stare attenti che questo pensiero non ci porti ad un altro pensiero, poi ad un altro pensiero ancora, cioè che non ci sia una serie, diciamo, una concatenazione di pensieri. And so at first it might be useful to label the thinking in a specific manner. So if we are planning, then we take the planning as an or we take that as an object, we label it accordingly as planning, we observe it, we try to know its nature, and then when it passes away we go back to the observation of the rise and fall. Può essere utile nell'osservare il pensiero utilizzare delle altre etichette, come per esempio il programmare. Allora di nuovo lo osserviamo, lo etichettiamo, cerchiamo di conoscere la natura del programmare e poi torniamo al nostro, quando se ne va, torniamo al nostro oggetto primario dell'addome. Or if at times certain we find that our mind is going to some event of the past, be this pleasant or unpleasant or neutral, and then we just label this as sudden remembering and or as memory, and sudden then we observe it in a non-involved manner, we try to know its nature, when it passes away we go back to the observation of the rising falling. A volte la mente potrebbe andare nel passato e quindi a quel punto possiamo etichettare come ricordare o ricordo. Di nuovo etichettiamo, osserviamo la mente, cerchiamo di capire la natura del ricordo senza farci coinvolgere dal suo contenuto, che esso sia piacevole, spiacevole o neutro, e poi torniamo al nostro oggetto principale. No, last night we briefly mentioned about a mindful observation of pains, and there's more to be said in this regard. Namely, when we observe pain, there's a few really basic categories of observation that might be very helpful for you to know. Namely, what's the quality of the pain? So is it a stabbing pain or a burning pain or a tearing pain or a throbbing pain? And then what about the intensity of the pain? Is it suddenly getting stronger? Is it getting weaker? Or or does certainly the intensity stay the same? And then what about certainly the location of the pain? Is it arising one spot and then spreading out over a larger area, or is it just staying in one, arising one spot and certainly staying there and disappearing in the same spot? And then finally, how's the pain doing in terms of time? Is it a long-lived pain or a pain that lasts just a moment or two? Per quanto riguarda il dolore che potrebbe sorgere durante la nostra meditazione, ieri l'abbiamo accennato brevemente, però forse è utile dare ancora delle indicazioni più specifiche. Ci sono delle categorie nell'osservazione del dolore che possono essere utili. Quindi la prima è sulla qualità del dolore, quindi è un dolore pulsante è una tensione, c'è della vibrazione, è un dolore che perforante, bruciante, eccetera. Questa è la qualità. Poi può esserci un'altra categoria che è l'intensità del dolore, quindi il dolore aumenta, diminuisce o rimane sempre uguale. La terza è la localizzazione del dolore, è sempre lì oppure, e poi si spande, per esempio, oppure si sposta da un'altra parte. E infine, come quarta categoria, c'è il tempo. Per quanto tempo rimane il dolore e come va via praticamente, come sparisce. No. Last night I didn't say much about mental objects, and there's a great variety of mental objects, of mental states that might arise during one's meditation practice, such as the arising or seeing a color in the mind, or seeing a form or shape, or is a state of happiness arising, or sleepiness arises, or joy arises, etc. And so whatever the prominent mental object might be, if it's prominent, focus your attention on it, label it accordingly, observe it in a non-reactive manner, non-involved manner, and try to know its nature. Ieri non abbiamo detto molto riguardo alla mente, agli oggetti mentali o agli stati mentali che però possono sorgere durante la seduta, quindi per oggetti mentali si intende un'immagine, per esempio delle forme, un colore, oppure possono sorgere degli stati mentali come la tristezza o la gioia, la sonnolenza, così via. Allora anche per questi oggetti mentali, quando diventano prominenti, occorre andare con l'attenzione, etichettarli, osservarli senza esserne coinvolti in un modo distaccato, conoscerne la natura e tornare all'oggetto principale. Now, with regard to the arising of any prominent object in the body or the mind, in sitting, in walking, and certain general activities, there are three major points to keep in mind. Namely, the occurrence of the respective object, so the arising of it. Then, secondly, the labeling plus the observation of the object. And finally, coming to know its nature. Those three things: occurrence, labeling and observation, plus knowing its nature. Qualunque oggetto sorga, sia nella mente che nel corpo, durante la meditazione seduta o la camminata o le attività generali, occorre tenere in mente tre fasi o tre aspetti. Il primo è quando avviene, quindi il sorgere del fenomeno in sé. La seconda fase è l'etichettatura e l'osservazione dell'oggetto. E la terza fase è quello che noi conosciamo dell'oggetto. Now, in terms of the occurrence of an object, there's nothing you have to do there. The object will arise of its own accord. Quindi per quanto riguarda il primo aspetto, quindi quando appare l'oggetto, lì non c'è niente da fare, perché l'oggetto appare per conto suo. And then your activity is required when it comes to the labeling of the object, and then choose a simple label. The most simple word that comes to mind in regard to the object that has arisen. Quindi il vostro lavoro inizia invece con l'etichettatura mentale, diciamo. Scegliete quindi una parola semplice che indichi l'oggetto che è sorto. La prima parola che vi viene in mente riferita all'oggetto che è sorto. And then, having labeled the object, you want to observe it really carefully from start to finish, and then the last part is knowing the nature of the object. Poi, una volta etichettato, volete osservare l'oggetto dall'inizio alla fine del processo, diciamo, e infine c'è la parte della conoscenza dell'oggetto. No. Among those three things, the occurrence, labeling, plus observation, and finally knowing the nature of an object, the last point is really the most important part. Di questi tre punti, quindi sorgere, l'etichettatura, l'osservazione e la conoscenza della natura dell'oggetto, la terza fase, diciamo, il terzo punto è quello più importante. So the ideal is an object occurs, you then label it, you then observe it, and you come to know its nature. Quindi la situazione ideale, poi sorge un oggetto, lo notate, lo etichettate, lo osservate e riuscite a conoscerne la vera natura. Now, at times you might forget or not have the time to label an object that has arisen. However, you come to know its nature, and that is fine. A volte può succedere che uno si dimentichi o trascuri di etichettare un oggetto che è sorto, però riuscite a conoscerne la natura, e allora va bene lo stesso. So, overall we try to label objects as best as we can, and obviously also we try to know its nature, but if at times we miss or forget to label an object, then that is all right as long as we know its nature. Ovviamente idealmente cercheremo di notare mentalmente ogni oggetto che sorge e conoscerne la natura, però se capita di trascurare questa parte dell'etichetta mentale, ma riusciamo lo stesso a conoscere la natura dell'oggetto, va bene così, va bene lo stesso, perché questa è la parte più importante. And so, these three aspects, occurrence of an object, labeling plus observation of the object, and knowing its nature, these can be applied to any predominant object that suddenly comes up in our meditation practice. Quindi questi tre aspetti che abbiamo elencato possono essere relativi a qualsiasi oggetto che sorga nella nostra pratica meditativa durante la giornata. Now, in the course of our meditation practice, it is pretty obvious, or becomes obvious, that the continuity of our mindfulness really is probably the most vital factor for a development of the practice itself and wisdom. Quindi l'aspetto più vitale, diciamo, che ha maggiore importanza nello sviluppo della nostra pratica e che porterà poi alla saggezza, è proprio la continuità della consapevolezza. Quindi questo sviluppo di un'attenzione, di una consapevolezza veramente continua, attimo dopo attimo. Now, continuity of mindfulness is a pretty relative term. At the very outset of our meditation practice, we may think that our mindfulness is quite continuous, but most likely it's not. And you will see over time that mindfulness gradually, as the days go by, becomes much more continuous, so that ideally there's mindfulness throughout our waking hours from moment to moment to moment to moment. Quindi questa continuità della consapevolezza è una cosa relativa, nel senso che all'inizio della propria pratica o di un ritiro uno può pensare di avere una consapevolezza continua, ma man mano che si va avanti con le giornate o con la pratica si vede che la consapevolezza può svilupparsi e può diventare ancora più regolare e continuativa. E idealmente uno dovrebbe essere consapevole dal momento in cui si sveglia il mattino fino al momento in cui va a dormire la notte, quindi in tutte le ore di veglia, diciamo. Now, there's at least three other factors that are also important that need to accompany mindfulness, and those are proper aiming the mind at the arisen object of observation. This needs to be accompanied by effort and then by what one might call rubbing. Ci sono ancora tre fattori da tenere presente quando nello sviluppare questa consapevolezza sull'oggetto, e sono la mira, nel senso che la mente deve mirare l'oggetto bene, prenderlo bene di mira e centrarlo. Secondo elemento importante è lo sforzo, e il terzo è quello che si chiama lo sfregare la mente sull'oggetto. No, the first one means that an object has arisen and then we focus our attention on the center of that object. The second aspect of effort means that again and again we propel, we send our observing mind towards the arisen object of observation. And the last aspect of rubbing arises quite naturally based on the first two, and this then means that the observing mind is closely in touch with the predominant object and literally rubs the object. Allora, questo cosa si intende con questi tre fattori? La mira significa che la mente è molto focalizzata ed è diretta all'oggetto in maniera molto precisa. L'energia vuol dire che c'è una sorta di spinta della mente, una continua spinta affinché la mente rimanga su quell'oggetto lì e non vada da altre parti. Invece il cosiddetto sfregare la mente sull'oggetto sta a indicare questa importanza della vicinanza della mente che osserva al suo oggetto, e questo terzo fattore viene in qualche modo come conseguenza dei primi due. Should in the course of a sitting some predominant pain arise, or other unpleasant bodily sensation like stiffness, then we try not to change our posture right away, but rather we try to deal with it at least for a while. And suddenly we then change our sitting posture only if the pain or stiffness or whatever it might be becomes quite unbearable, and then we change our posture slowly and with mindfulness. Se dovesse sorgere un dolore molto forte nel corpo o una sensazione spiacevole, allora cerchiamo di non muoverci subito, immediatamente, ma cercare di stare con questa sensazione il più a lungo possibile. Se proprio diventa insopportabile, allora con molta lentezza e consapevolezza possiamo cambiare la nostra postura. Now, these are some of the main points to keep in mind with regard to the sitting meditation. In terms of the walking meditation is as important as the sitting meditation. Dhamma can unfold in both walking as well as sitting, and even during the general activities. Queste erano le istruzioni principali per quanto riguarda la meditazione seduta. Poi c'è la meditazione camminata che ha uguale importanza della seduta, perché il Dhamma può rivelarsi sia nella camminata, sia nella seduta che nella camminata che nelle attività quotidiane. No. Especially at certain, the beginning of a retreat, we try to spend equal time in sitting meditation and in walking meditation. So if we do half an hour of sitting, then we walk for half an hour. If we sit for three quarter of an hour, then we walk for three quarter of an hour, and so on. Soprattutto all'inizio del ritiro cerchiamo di avere lo stesso periodo per la seduta e per la camminata. Quindi se ci sediamo per mezz'ora, cammineremo per mezz'ora, se ci sediamo per tre quarti d'ora, camminiamo per tre quarti d'ora e così via di seguito. No. Walking meditation was certainly recommended by the Buddha, and certainly the Venerable Mahasi Sayadaw of Fatna Burma has certainly spoken of three forms of walking meditation. Quindi la meditazione camminata è stata consigliata dal Buddha stesso e Mahasi Sayadaw della Birmania, il maestro birmano, ha indicato ancora tre elementi riguardo alla meditazione camminata. The way it's divided in three parts. I'll explain, yeah. Mm-hmm. Può essere suddivisa in tre parti. The first form of walking meditation that we could do during the first third of a walking session consists in being mindful while moving the right leg and then while moving the left leg. And this then involves again the labeling. So when you move your right leg, you label this as right stem. And when you label the left, or when you move the left leg, then you label this as left stem. And then try to observe the most prominent sensations that occur in the leg, and also know the nature of the respective sensation. Allora, nella prima parte, che può essere un terzo della camminata come tempo, ci si focalizza sulle gambe, quindi sull'alternanza della gamba destra e della gamba sinistra. Quindi anche qui si segue lo stesso procedimento, quindi si etichetta gamba destra o gamba sinistra, si osserva la sensazione e poi si cerca di conoscerle la natura. Now, during the second or third of a walking session, we slow down the walking and then divide one step into two parts, namely the lifting part and then the lowering and placing of the foot. And this then again is done with proper labeling. So when we lift the foot, we label this as lifting, and then we observe it, we try to know the predominant sensations that occur in the foot itself. And then when labeling, when lowering, placing the foot, we label this accordingly as lowering. And suddenly again we try to observe what is happening, and we try to know the nature of the respective sensation, and mostly in the foot. Poi nella seconda fase, quindi il secondo terzo, diciamo, del tempo, ci focalizziamo più sul piede destro e sinistro, e il passo viene suddiviso in due, quindi c'è l'alzarsi del piede e poi l'abbassarsi del piede. Quindi anche questa è un'etichetta che si può utilizzare, quindi alzare o sollevare e abbassare o poggiare il piede. Sempre lo stesso principio, quindi si etichetta, si osserva il movimento, la sensazione del piede in questo caso, e si cerca di conoscerne la vera natura. Then, during the last third of a walking session, try to slow down your walking even further, and then divide one step into three parts, namely the lifting process, forward movement, and the lowering and placing of the foot. nella terza parte della camminata, cercate di rallentare ancora di più. Me l'ho dimenticato di dire che nella seconda parte occorreva anche rallentare, ovviamente. E in questa terza fase dividete il passo in tre parti, quindi c'è di nuovo il sollevare, che è l'avanzare del piede, poi l'abbassare il piede, e osservate le sensazioni allo stesso modo di prima. And certainly so, the lifting process and the lowering placing is as explained earlier on. The only new thing here is the forward movement, and certainly so, as the foot is gliding through the air, we label this, we observe it as best as we can, and we try to know its nature. Quindi in questo caso, in questa terza fase, il sollevare il piede, il poggiare il piede sono gli stessi movimenti che abbiamo notato nella seconda fase. Quello che cambia qui è l'avanzare del piede. Quindi anche qui, mentre il piede galleggia, diciamo così, sull'aria, cerchiamo di percepire bene le sensazioni e conoscerne la loro natura. No. When we do the walking meditation, we try to keep our body as upright as possible. Make sure that your head is upright, and that you're not looking at your feet all the time. If you keep doing this over a longer period of time, you'll end up with a stiff neck. Nella camminata è importante tenere il corpo eretto e non piegarsi in avanti, non incurvarsi, non guardare i piedi soprattutto, perché a lungo andare questo potrebbe procurare un torcicollo, rigido. And when you do the walking meditation, choose a path that is maybe 5, 10, 15 meters long, and then mindfully walk up and down. Quindi nel scegliere il vostro percorso, il tratto su cui camminare, scegliete appunto un percorso di 5, 10 o 15 metri e poi andate avanti e indietro. And certainly keep in mind that formal walking meditation, as we do it in the context of a Vipassana retreat, is not the same as ordinary walking. Tenete presente che il camminare formale, diciamo, la camminata formale, così come facciamo in un ritiro di Vipassana, non è lo stesso che camminare normalmente nella nostra vita quotidiana. It is engaging in walking with utmost attention and effort, concentration and so on. Perché è una meditazione ovviamente molto attenta, dove mettiamo il massimo sforzo, la massima concentrazione, la massima consapevolezza. And so, when we choose a path, then we try to ensure that our path does not crisscross with the path of other yogis, since this is likely to cause some social friction. Assicuratevi che il sentiero che avete scelto, il percorso che avete scelto, non vada a incrociare quello di un altro meditante, perché questo può causare un po' di frizione sociale. And you will find over time that suddenly slowing down in the walking meditation greatly helps to go deeper, to see more details. E noterete col tempo che il rallentare il più possibile nella meditazione camminata vi permette di andare più in profondità e di osservare maggiori dettagli. Also, what tends to be very useful in the walking meditation, as well as general activities, is the restraint of the senses. So even though we have eyes to see with, we do not look here and there. Un'altra cosa che troverete utile sia nella camminata che nelle attività generali, diciamo, è il controllo dei sensi. Quindi anche se abbiamo gli occhi con cui vedere, li teniamo focalizzati, diciamo, e non stiamo a guardare di qua e di là. No, as for the general activities, restraint of the senses is important. We try to perform all general activities as slowly as possible. Per quanto riguarda le attività generali, quindi abbiamo già detto questo controllo dei sensi, questo limitare, no, le percezioni sensoriali, gli stimoli sensoriali, e anche cercare di fare le cose più lentamente possibile. And obviously also with utmost mindfulness. E ovviamente con la massima consapevolezza. And so general activities, yeah, then cover any activity outside of formal sitting meditation, formal walking meditation, so it covers activities such as taking a meal, breakfast, lunch, the juice in the afternoon, or brushing one's teeth, taking a shower, opening a door, closing a door, and so on and so forth. Quindi per attività generale si intendono tutte quelle cose che vengono fatte al di fuori della meditazione formale, seduto o camminata, e quindi può essere, non so, il consumare il pasto, colazione, pranzo, bere il succhio a pomeriggio, oppure lavarsi, quindi farsi la doccia, lavarsi i denti, ma anche aprire e chiudere una porta e così via. So the principle behind all of these instructions for the sitting meditation, walking meditation, and general activities is really to be mindful, to label, and then to be mindful, in other words, to observe, and to know what is going on from moment to moment. Quindi il principio che sta sotto, dietro tutte queste istruzioni, sia per la seduta che la camminata che le attività generali, è di riuscire a etichettare mentalmente, a essere consapevoli intanto, quindi etichettare, osservare attentamente l'oggetto, conoscere la natura di qualsiasi oggetto che sorga nell'arco della giornata, ma a sviluppare una consapevolezza attimo dopo attimo. Now, the next point covers the interviews. If you like to, you could consider after a good sitting or walking session, you could write down your experiences. This certainly will greatly help for precision. Quindi per quanto riguarda i colloqui, dopo una meditazione o una meditazione seduta o camminata particolarmente significativa, potete scrivere qualche appunto rispetto alla vostra esperienza. Questo vi aiuterà a essere più precisi nei colloqui. Now, during the interview, try to report on your best sitting session during the previous 24-hour period. If time permits, also report on the best walking session. And keep or sticking to as much as possible to those certain three things mentioned earlier on, namely the occurrence of an object, the labeling of the object, its observation, and knowing the nature of the object. Quindi durante i colloqui dovrete riferire sulla vostra migliore seduta, o se c'è tempo anche la camminata, e cercate di usare come criterio quei tre elementi che abbiamo detto prima, quindi il sorgere dell'oggetto, se l'avete etichettato e osservato, e poi se siete riusciti a conoscerne la natura. No, when you come in for the interview, this is part of your mindfulness practice, so try to come in mindfully, really mindfully, and then having taken your seat, try to report in a manner that follows the principles of accuracy and then brevity and precision. Quindi quando entrate per il vostro colloquio cercate anche qui di essere più consapevole possibile, perché anche questo fa parte della pratica, e poi nel riportare la vostra esperienza seguite i criteri dell'accuratezza, della sintesi e della precisione. And suddenly then, simply report in a chronological manner what you experienced, and in the sitting meditation, starting with a clear description of your rising and falling movement of the abdomen, and then you take it from there. Riportate in senso cronologico quello che avete sperimentato, e per quanto riguarda meditazione seduta partite sempre con la descrizione del vostro addome, cioè di come avete percepito il movimento dell'alzarsi e dell'abbassarsi, e poi andate avanti da lì. And so now try not to evaluate your own experiences, and so simply relate to the teacher what has occurred. Cercate di non dare delle valutazioni riguardo le vostre esperienze, ma semplicemente riportare all'insegnante quello che avete provato. And so, to report on report one's experiences means to report whatever was prominent, whatever was the main feature within the last 24-hour period. So if, let's say, you've had some difficulties and that's the main thing, well, then report on those difficulties. Quindi la cosa importante è riferire dell'aspetto principale, prioritario, detto prioritario, di quella giornata, delle 24 ore. Per cui se avete avuto delle difficoltà durante la giornata, beh, quelle sono le cose da riportare nei colloqui, nel colloquio. No, for years and years I've stuck to the system of having almost daily interviews, and this is really for the benefit of the retreatants, so that the retreatants, for one thing, apply themselves wholeheartedly to the practice, and then also for the teachers to give guidance, very close guidance and encouragement. Quindi per anni io ho seguito questo sistema dei colloqui individuali giornalieri, e trovo che questo sia di beneficio per i praticanti, tanto perché loro mettono molto impegno, molto sforzo, sapendo di dover riportare poi all'insegnante, e l'insegnante può in qualche modo monitorare il loro progresso e dare una guida e anche un incoraggiamento. And so the almost daily interviews suddenly then have a galvanizing effect on a meditator's practice. E quindi questi colloqui individuali hanno come un effetto quasi galvanizzante, no? Si può dire in italiano, no? Sulla pratica dei meditanti. So if you know that your next interview is coming up tomorrow, then obviously you will want to have something to report, and in order to have something to report, you have to observe properly. E sapendo che avrete un colloquio domani, vorrete avere qualcosa da riportare all'insegnante, e per avere qualcosa da riportare dovete osservare nel modo giusto. Ok, so this much in terms of the interviews, and then a few other things, general things. During the beginning of a retreat, there's some typical initial difficulties occurring across the board, and those then comprise sloth and torpor, especially during the first few days, and then secondly, wandering mind will also be very common. So you find you sit there, you're trying to observe the rise and fall, and every 10 seconds or so your mind goes off thinking about something else. Alcune parole su delle difficoltà che di solito incontrano i meditanti all'inizio di un ritiro. Quella principale è la sonnolenza, il torpore, poi può subentrare una mente divagante, quindi siete magari seduti lì e cercate veramente di stare con il respiro, con l'addome, però trovate che ogni 10 secondi la mente divaga e va altrove. And all sorts of pains and aches might arise in the body during the practice, one might also have or find it certainly difficult to leave or to practice according to the schedule. And so based on these initial difficulties, a certain sense of discouragement at times might arise. But please do not despair. This is just of a temporary nature. E un'altra cosa che può succedere è che subentrano dei dolori, dei fastidi nel corpo, questo magari porta a una certa difficoltà nel seguire l'orario, rispettare l'orario, e di conseguenza il meditante potrebbe anche avere dei momenti di scoraggiamento. Ma il Venerabile vi invita a non scoraggiarvi, perché questi sono solo dei problemi così, provvisori, temporanei, all'inizio, che caratterizzano l'inizio di un ritiro. No. For Vipassana practice, balance practice is very important, and certainly so there's certain minimum requirements, and then certainly we need to respect certain limits, certain borders that we need to respect. Per la pratica di Vipassana l'equilibrio è un valore molto, molto importante, e quindi ci sono dei limiti, diciamo, che dobbiamo rispettare, dei confini che vanno rispettati. So we want to make sure that we always drink enough liquids. We also want to make sure that we eat enough food. Sometimes retreatants fall upon the idea to eat less and less, or even go on a fast, and the practice is already pretty difficult, so why make it unnecessarily difficult? Quindi sono dei consigli, dei requisiti che sono quelli di bere in abbondanza e anche di assumere cibo a sufficienza, perché alcuni meditanti cominciano un ritiro e pensano di poter limitare il cibo, addirittura digiunare, e non è il caso, perché già la pratica è molto impegnativa, quindi perché aggiungere anche questo, come dire, no, questa limitazione. Sometimes certain retreatants get constipated during a retreat. Constipated means something that for two or three or more days one cannot move the bowels anymore. And this usually does interfere with one's practice. One feels uneasy, and then a certain sense of irritation might come up. And therefore, please tackle constipation as early as possible by either using natural laxatives or doing some exercises. If you need some exercises, I can tell you, and I give you a few. Un altro problema che può colpire i meditanti all'inizio o anche durante il ritiro è un problema di stitichezza. Quindi se uno vede che non va di corpo per 2 o 3 giorni, allora dovrebbe affrontare il problema, perché questo può influenzare la propria pratica. E quindi o prendere dei lassativi naturali, oppure fare degli esercizi. Se volete, il Venerabile può consigliarvi degli esercizi da fare per risolvere questo problema, perché può dare molto fastidio durante la pratica. And now, the next point is please make sure that you get enough sleep during the night time. In the course of a retreat, the need for sleep will or might fluctuate. At times we need more sleep, at other times we might need less sleep. Now, for sure, we do not recommend that a meditator willfully who deprives himself or herself of sleep. So, in other words, forces himself or herself to practice satna through the whole night, and satna, the meditation, is not up to that point yet. Quindi assicuratevi anche di dormire a sufficienza, ci sarà, cioè l'esigenza di sonno può variare durante la pratica, potete avere bisogno di più o meno sonno. Quello che comunque si sconsiglia di fare è deprivarsi, diciamo, volontariamente di dormire, per esempio pensando di stare svegli e praticare durante la notte, limitando quindi le ore di sonno. Questo non è consigliabile quando il meditante non è ancora pronto per questo tipo di sforzo, diciamo. Now, some retreatants try to set records and possibly want to become or want to be mentioned in the Guinness Book of World Records in terms of pushing through pains and through excruciating levels of pains. Please don't go for it in this. As mentioned earlier on, if a pain becomes excruciating or somewhat close to this, then do feel free to change your posture, do this mindfully and slowly. Ci sono dei meditanti che vogliono stabilire dei record, entrare nel record dei primati, del Guinness, per quanto riguarda lo sforzo che mettono, per esempio, o la resistenza che hanno nell'affrontare i dolori. E come ha detto prima Venerabile, se un dolore diventa lancinante o troppo forte, vi prega di cambiare la posizione, cioè di non cercare di sforzare troppo, perché questo può ovviamente creare delle gravi conseguenze e non aiuta la pratica. Now, all sorts of articles and books have been written about meditation, documentaries have been shown, and at times the impression that gets the impression that arises is that during our meditation practice, thoughts should not be arising. So meditation is nothing other than sitting there without a single thought arising in the mind. And what do you think? Is this possible or not? Quindi ci sono molti articoli, molti libri, molti documentari sulla meditazione che danno l'idea che meditare significhi liberarsi da ogni pensiero, cioè che nessun pensiero sedersi lì senza che nessun pensiero sorga nella mente. La Venerabile chiede: ma secondo voi questo è possibile? E la risposta è no. No, no. If a person does or practices jhana meditation and then goes very deep into the jhanas, yes, indeed, thinking does greatly reduce. But this here is not a jhana retreat, but a vipassana retreat. And so the approach in the vipassana practice is when thinking arises, when it's predominant, it becomes another object of observation, and that's all. Quindi se si fa la pratica di jhana, di profondi stati di assorbimento, allora questo è possibile che il pensiero, l'attività del pensiero si riduca molto. Ma qui non stiamo facendo la pratica di jhana, stiamo facendo la vipassana. Questo significa che quando sorge il pensiero e diventa predominante, diventa un oggetto da osservare come gli altri. E quindi si segue si seguono le istruzioni che ha già dato riguardo i pensieri. No, should there be some retreatants who have never sat a retreat before, then you might find it difficult to sit for an entire hour, and then also to do the walking meditation for the entire hour. Now, for such meditators, try to practice according to your ability. and satnya. So if you find satnya that after maybe 45 minutes or so, it's really getting too much, then gracefully change your posture and then continue with the sitting up until the hour is up. Se c'è nel gruppo qualcuno che è al suo primo ritiro, allora questa persona potrebbe trovare difficile rimanere in posizione seduta per un'ora o fare la camminata per un'ora intera. Allora il Venerabile vi consiglia di praticare secondo le proprie possibilità e capacità. Se dopo 45 minuti non ce la fate più a stare seduti, allora con consapevolezza lentamente potete cambiare la postura e poi continuare la seduta. No, we might at times also make things difficult for ourselves by putting excessive pressure on ourselves by entertaining thoughts of high expectations in terms of attainment in our meditation practice or in terms of competing with other retreatants. A volte possiamo anche crearci delle grandi sofferenze o delle difficoltà mettendoci, come dire, molto sotto pressione, no? Creando una situazione di tensione dovuta a alte aspettative riguardo alla pratica, volendo raggiungere dei traguardi o anche mettendoci in una posizione di confronto, di competizione con altri meditanti. Such kind of expectations are rather counterproductive. They don't. They will not help your practice. And thus, take an expectation itself as an object of observation. Label it accordingly. Observe it and try to know its nature. Quindi questo crearsi delle aspettative può essere controproducente nei confronti della pratica, non aiuta la pratica. Quindi quello che si può fare è prendere l'aspettativa stessa come un oggetto, etichettarlo, osservarlo, cercare di capirne la natura. Now, when it comes to certain difficult mental states, retreatants may want to exercise complete control over the mind. Quando sorgono degli stati mentali molto difficili, il meditante potrebbe voler avere un controllo completo sulla mente. So to give you an example, one might think it's necessary to totally or not to let any anger arise in the mind. Per esempio, uno potrebbe pensare che non deve far sorgere neanche un po' di rabbia nella mente. And that is unrealistic. So the Vipassana approach is simply to take the anger as an object of observation and then to label it, to observe it and to know its nature. Quindi questa è una cosa assolutamente irrealistica, e quindi l'approccio della Vipassana è di rendere qualsiasi cosa che sorga nella mente, quindi anche la rabbia, come un oggetto, di nuovo etichettarlo, osservarlo e conoscerne la vera natura. Now, on the other hand, again, with regard to difficult states of mind, some retreatants at times push the mind far too hard into states of extreme fear, worry, self-judgment, guilt and the like. Può anche succedere però che un meditante, per quanto riguarda questi stati difficili della mente, si spinga un pochino oltre, diciamo così, e quindi si trovi completamente preso da stati negativi come per esempio una forte rabbia, la paura, l'angoscia, i sensi di colpa, self-judgment. Anche questo giudizio di sé, no? Autocritica troppo forte, worry. La preoccupazione. Should in your practice you be experiencing extreme levels of fear, of depression, or anxiety, or elation, hyperactivity, etc., then kindly inform your teacher right away. Quindi se dovreste sperimentare questi livelli così molto forti di ansia, di depressione, ma anche di esaltazione o di grande irrequietezza mentale, agitazione, allora Venerabile vi prega di avvertire subito l'insegnante. And certainly so, the principle here is to keep the mind as balanced as possible, to practice in a balanced way. That's better said. Qui l'idea è proprio quello di praticare in un modo molto equilibrato. Now, as mentioned already last night, we want to practice with an attitude of a relaxed mind, yet. Or if we want to observe objects with a relaxed and yet alert mind. Come abbiamo detto ieri sera, noi vogliamo osservare gli oggetti con una mente rilassata, ma allo stesso tempo vigile. Now, in the course of our meditation practice, the experiences the experiences of one retreat and another retreat and may differ to some extent. Quindi durante un ritiro di Vipassana le esperienze di un meditante rispetto a un altro possono variare fino a un certo punto. Just go by your own experiences. Don't let certain things that you've heard from others or that you've maybe read in books about certain meditation, don't let certain of these things influence your practice. E quindi cercate veramente di stare molto aderenti alla vostra esperienza, non fatevi influenzare da cose dette da altri o lette sui libri riguardo la meditazione. And certainly so the whole range of human experiences might come up in a retreat, just observe what certainly ever comes along with a relaxed and alert mind. Quindi tutta la gamma dell'esperienza umana potrebbe essere sperimentata durante un ritiro di meditazione, quindi semplicemente osservate con questa mente rilassata ma sveglia. I and Sandra and Satna Jani, we are here to support you in every possible way. Quindi sia venerabile che io che Gianni siamo qui per sostenervi in qualunque modo possibile. Okay, and that's about it in terms of additional instructions. Do you have any questions? Terminiamo qui con le istruzioni aggiuntive. Se avete delle domande, potete porle. Sì, prego. Volevo chiedere. Qual è l'equilibrio tra la mente rilassata, attenta, vigile e rilassata, e lo sforzo, lo spingere? So this, what's the relationship between a relaxed mind and so it's making and effort? So that required when we make effort, it requires that the effort also is balanced, and it's not the type of effort where you sit there in meditation and you clench your teeth and you get all tensed up physically as well as mentally. So it's not that. E quindi anche lo sforzo deve essere uno sforzo equilibrato, quindi non è quello sforzo dove uno veramente si mette lì, stringe i denti e cerca veramente di darci dentro così in maniera molto forzata, diciamo. No, so it's what you need is balanced effort that is not excessive, so not certain too strong. If you apply excessive effort, then very soon you will get restless, so that will not work. E quindi cosa si intende per sforzo equilibrato? Che non è eccessivo, perché lo sforzo eccessivo può portare a restlessness. Sì, a irrequietezza. Quindi questo è una cosa on the other hand, auspicabile. if your effort is not suddenly sufficient, so it's lacking, then you might find that the mind suddenly falls asleep. Viceversa, se non c'è abbastanza sforzo, potrei trovare che la mente si sta addormentando. So both of those suddenly two extremes with regard to effort don't work. Quindi questi due estremi che riguardano lo sforzo non funzionano. In suddenly, so you need an effort that is balanced and that then is combined with a mind that is relaxed and yet alert. E quindi ci va uno sforzo equilibrato che è abbinato a una mente rilassata ma sveglia. Now, you might suddenly say, well, how do I get to that certain state? And it's just a matter of trial and error. Uno può chiedersi, ma come ci arrivo a quel punto? Beh, è una questione di tentativo ed errore. No, so at times you will find you're making too much effort, it will not work. At times you will find your effort is not enough, that will not work either. At times you find the mind is not really relaxed, that will also not work. A volte troverai che stai mettendo troppo sforzo e quindi non funziona, oppure troppo poco e non funziona neanche quello, oppure che la mente non è rilassata e vedrai che anche quello non va. And when you find that the mind gets all tensed up, then take that state itself as an object of observation and then just label it as being tensed up. Quando vedi che la mente diventa tesa, allora prendi quella tensione come un oggetto e cerca di conoscere come cosa sia la mente tesa. Ok. Any other questions? Sono delle altre domande? Quando dice che c'è una sensazione mentale, allora la prima cosa è dare un'etichetta, poi osservarla, e il terzo momento vedere la reale natura. Cosa intende per reale natura? So, as regards the mental state, again, you said to label, observe, and know the nature. What do you mean by the nature of a mental state? Well, each mental state will manifest in different ways. And you have surely been angry in the past at times. And at that point, did you find your mind was very calm and peaceful and cool? Or did you find your mind was pretty much boiling and getting all tensed up, etc.? And being unwholesome and so on. Sì, e quindi ogni stato mentale si presenta e si manifesta con caratteristiche diverse. Allora, per esempio, sicuramente sarei stato arrabbiato in passato, quindi la rabbia come si presenta? La mente è calma e tranquilla oppure è come se fosse, come se stesse bollendo, così, c'è dell'agitazione nella mente. Tense. È tesa, tensione. No. So, knowing the nature of mental states, that is something that is your work for this retreat. Conoscere la natura degli stati mentali, beh, questo è il vostro lavoro in questo ritiro. Oh, no. Or when sleepiness arises, obviously during the first few days sleepiness is going to come up, then rather than trying to just let it happen, pay attention to the process, pay attention to the sleepiness, pay attention to the things that precede or the preliminary signs of sleepiness, and observe those carefully and know what this all feels, what this is all about. Oppure la sonnolenza, il torpore che inevitabilmente arrivano all'inizio di un ritiro, piuttosto che star lì a aspettare che passi, cercate di vedere il processo della sonnolenza, oppure quei segnali che lo precedono, e anche lì conoscere la vera natura di questo fenomeno mentale che è la sonnolenza. Or you might find at times that restlessness arises in the mind. Well, then observe that restlessness suddenly carefully, and you will find your mind is not going to be, or you will find how your mind is agitated and moving from one object to another object, and yet to another object. È la stessa cosa per l'irrequietezza. Se dovesse sorgere l'irrequietezza durante la vostra pratica, vedete come si manifesta, è come la vostra mente sia in uno stato di agitazione, come vada da un oggetto all'altro molto velocemente. Ok, any other questions? Sono altre domande? No, then maybe this much, and we also have to. Oh, yes. As usual. Dobbiamo finire qui perché abbiamo il colloquio. Never tra worked. Due minuti. Okay, but we can. Are you going to translate during the interview? Yes. Or, yeah. So then maybe at 9:20 or so. Okay. Would that work for sure. you? Quindi facciamo il primo colloquio alle 9:20 anziché alle 9:15, come segnato. Yes, and now I have a question.